Disco Dallas settimana. A me piace un sacco sta musichina per iniziare la settimana e spero anche che piaccia ai nostri ascoltatori, perché sennò abbiamo sbagliato qualcosa. Direi che però per conquistarli meglio questa settimana, Mauro, io punterei su un CD che secondo me è impossibile che non piaccia. Allora, intanto è impossibile che non piaccia, ma vogliamo già dare delle anticipazioni. Diamo delle cose. C'è un po' della suspense. Allora, il disco della settimana che vi presentiamo oggi è il nuovo album di una band che presto avremo ai nostri microfoni. Mamma mia, che emozione, che ho emozione. Ho avuto un mancamento. Aspetta che ti raccolgo un attimo qua in studio, che sennò... Allora, questa band si chiama Jennifer Gentle e inizia a suonare diversi anni fa. Poi parleremo anche appunto della biografia della band, che nel tempo ha anche cambiato un pochino fisionomia e componenti. Si è cambiato la maggior parte della formazione, è rimasto un pochino il nucleo proprio centrale. Esatto, i Jennifer Gentle sono usciti e poi sono rientrati con un album che hanno registrato loro, che si chiama Jennifer Gentle, esattamente come loro. Questo album è uscito il 4 ottobre, quindi pochissimi giorni fa, ed è un insieme di 17 pezzi molto interessanti, secondo noi. Più o meno un'ora di musica, sempre nell'ottimo stile dei Jennifer Gentle, ma un po' nuovo, anche perché, diciamolo, mancavano dalle scene, quindi con... non dalle scene ma dagli album, da circa 10 anni. Esatto, quindi in questi 10 anni hanno lavorato sui nuovi contenuti dell'album, che è uscito appunto pochissimi giorni fa. Vi faremmo sentire già il primo pezzo e poi vi raccontiamo qualcosa di questa traccia che abbiamo scelto per voi. La traccia è il singolo che ha anticipato l'album, che si chiama Guilty. Ok, dopo questo pezzo vi raccontiamo qualcos'altro. To Ma quindi, ora che siamo tornati, parliamo di questo pezzo. Guilty a me è piaciuto moltissimo, secondo me è molto interessante, ed è appunto il primo singolo che è stato estratto da questo nuovo album, ed è stato pubblicato il 3 settembre. Nello stesso giorno è uscito anche il videoclip di questa canzone, che è molto molto simpatico. È stato girato nel Nadir di Padova e vuole essere un omaggio alla ricca e vibrante scena padovana, veneta, insomma. Nel ruolo dei Jennifer Gentle, quindi gli attori che interpretano la band, ci sono dei musicisti locali, tra cui Folake Oladun degli Cannell nella parte della cantante e diversi membri della band Il Fulcro. Invece l'assolo di chitarra a me pare che sia stato suonato da Julian Fasolo, che è il figlio di Marco. Marco, ricordiamo, è praticamente il perno dei Jennifer Gentle, che è stato diciamo presente per tutta la storia di questa band ed è anche colui che ha girato appunto il videoclip. Ma parliamo un po' forse della biografia dei Jennifer Gentle. Allora, la biografia inizia così, e qua cito testualmente: Jennifer Gentle sono forse una delle più bizzarre e improbabili rock band italiane di sempre, tanto da divenire il primo gruppo tricolore a essere messo sotto contratto dalla leggendaria etichetta americana Sub Pop, la stessa di Nirvana, Soundgarden, Madonna e Shins. Quindi mica ragazzi, insomma. Esatto, e tra l'altro proprio anche l'essere stati messi sotto contratto da un'etichetta così prestigiosa li ha portati a essere una delle formazioni indie più ascoltate all'estero, sostanzialmente anche un po', diciamo, le prime appunto a essere ascoltate anche all'estero. Ma la loro storia inizia da lontano. Sono nati nel 99, quindi compiono 20 anni. Nel 1999, perché 99 la storia sarebbe stata abbastanza lunga. Nel 1999, quindi compiono 20 anni e la loro allora 19enne Marco Fasolo, cantante, chitarrista, autore di testi e musiche, incontra il batterista Alessio Castaldello e insieme, uniti dal loro amore per il rock and roll anni 50, il garage punk, il pop psichedelico, insomma tante influenze che li accomunavano, hanno deciso di creare il primo album dei Jennifer Gentle, che è uscito qualche anno dopo. Perché? Perché a loro serviva comunque anche qualcun altro che suonasse, no? E infatti hanno chiamato un chitarrista che si chiamava Isacco Maretto e un bassista Nicola Crivellari. Assieme hanno inciso l'album uscito nel 2001, che è I Am You Are. Direi che a questo punto abbiamo parlato un sacco, perché ci sono tante cose belle da dire riguardo a questa band, che io devo dire mi è anche piaciuta molto l'ultima volta che ho avuto modo di ascoltarli. Il secondo pezzo che ci ascoltiamo, tratto appunto da Jennifer Gentle, del Jennifer Gentle, si chiama Do You Hear Me Now? Had it. Eccoci tornati qua. Allora, continuiamo a parlare dei Jennifer Gentle, di cui vi stiamo presentando questo nuovo album uscito il 4 ottobre del 2019, dopo anni di silenzio. Vi stavamo raccontando poco fa di I Am You Are, che era il primo album uscito nel 2001. Ma poi la loro carriera è un pochino proseguita, ovviamente. Esatto, il secondo album esce l'anno successivo e si chiama Funny Creatures Land, sempre sotto l'etichetta Silly Boyd, che è la loro etichetta sostanzialmente. Nel 2003 poi in realtà gli album in studio vengono ripubblicati come doppio CD da un'etichetta australiana, quindi la loro storia comunque diventa sempre più internazionale. Questa etichetta si chiama Lexicon Devil e proprio come abbiamo detto, grazie al loro successo, nell'anno successivo, quindi nel 2004, i Jennifer Gentle riescono a firmare con l'etichetta Sub Pop. Sì, l'anno successivo esce Valende, che ottiene ottime recensioni e prepara il terreno a un primo lungo tour americano, che comprende anche dei concerti sold out a New York e Los Angeles. Esatto, poi però qua succede qualcosa. La loro storia prosegue appunto, abbiamo detto, fino a quest'anno e a questo album Valende, che è il terzo album a questo punto. Poi nel 2006 Alessio, che è stato un po', diciamo, assieme a Marco il motore della nascita di questa band, decide di abbandonare il progetto. Esatto, Marco Fasolo, che rimane a questo punto solo per un po', registra l'enigmatico album chiamato Midnight Room, dopodiché recluta una nuova formazione. In questa nuova formazione entrano Andrea Garbo alla chitarra, Francesco Candura al basso e Liviano Maos alle tastiere, assieme a Paolo Mongardi alla batteria. Quindi diciamo i Jennifer Gentle assumono una nuova formazione. Formazione che nel 2007 fa delle tournée pure in Cina. Dopodiché partono per un nuovo tour americano di un mese e mezzo. Dall'album Midnight Room viene estratto il brano Take My Hand, che è incluso in un CD allegato alla rivista Mojo, che nella tradizionale compilation Root Trade Shop segnala le migliori uscite indie dell'anno e nel mondo. Insomma, e quindi questa appunto è già una grande vittoria per questa band e segna proprio un percorso che le ha portati effettivamente ad avere molto successo all'estero, quindi non solamente in Italia. Dopo la pubblicazione per il mercato inglese dell'EP Evanescent Land nel 2008, siamo i Jennifer Gentle, che sono ridotti di nuovo come formazione a Marco Fasolo e Liviano Moss, al quale poi si aggiungerà Stephen Gliquist, proseguono la tournée in Europa, suonando in Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Olanda e partecipando all'importante festival europeo di Groningen in Olanda. A questo punto insomma la band continua a suonare, riprende a suonare con una certa regolarità, però appunto album non se ne sono visti fino ad oggi, fino a venerdì, anzi venerdì quando è uscito appunto Jennifer Gentle, che è il nuovo album. Di cui a questo punto vi facciamo sentire un altro brano, prima di raccontarvi le ultime cose. Wait to get all in hand. Insomma, abbiamo parlato della biografia, abbiamo parlato un po' di quest'album, di quando è uscito, di cosa contiene, abbiamo parlato della formazione, cosa rimane? Il tour. Beh, rimane il tour, anche perché dopo tutto questo po' di canzoni e di cose che vi abbiamo fatto sentire su una delle più bizzarre band del panorama indie italiano. Mauro, hai detto popò in radio? Popò? Non si può dire popò in radio? Tanto non mi vede nessuno. Potrei anche essere, non lo so, a testa in giù e nessuno lo sa. Comunque parliamo... Mauro si sta scaccolando! Parliamo delle date dei Jennifer Gent, che magari i nostri ascoltatori sono più interessati alle date piuttosto che alle mie caccole del naso. Allora, il tour di presentazione dell'album dei Jennifer Gent, che si chiama appunto Jennifer Gent, inizierà il 24 ottobre 2019 alla Latteria Molloy di Brescia. Sì, però non vi dovete preoccupare perché comunque arriveranno anche in zona, eh? Sì, allora il 26 ottobre saranno a Pisa, il 1 novembre al Serraglio di Milano, il 2 novembre al CSO Pedro di Padova, il 7 novembre a Rivoli, provincia di Torino, al Circolo della Musica, e poi il rullo di tamburi finalmente arriveranno in zona. Infatti il 9 novembre suoneranno al Bronson di Ravenna. Poi ci sono una serie di altre date che però noi vi ricorderemo più avanti. Perché, Mauro? Perché, come vi abbiamo detto all'inizio di questo nostro disco della settimana, presto li avremo anche in linea con noi. Quindi per un'intervista in cui chiederemo le date successive del tour e a quel punto le diremo anche a voi ascoltatori. Esatto, allora a questo punto vi lasciamo con l'ultimo pezzo estratto da questo album che vi ricordiamo è uscito il 4 ottobre. L'album si chiama Jennifer Gentle dei Jennifer Gentle, quindi è anche comodo da ricordare, dai, siamo onesti. Ascoltiamo questo pezzo. Mauro, che pezzo è? Allora, questo pezzo che dedichiamo a tutte le ascoltatrici, all'ascoltatore. Ehi, con calma. Si chiama Beautiful Girl. Ah, va bene, dai, anche agli a tutti e tutte. Dedichiamo questo pezzo e vi rimandiamo quindi all'intervista che faremo verso la data che ci sarà a Ravenna, al Bronson. Se per caso avete qualche domanda che volete fare ai Jennifer Gentle, scrivetecela senza nessun problema. Vi ricordiamo i canali di Radio Città Fujiko, oppure potete contattare anche direttamente noi a Festivals Backpack, festivalsbackpack.it, oppure sulla pagina Facebook o su Instagram Festivals Backpack. Ci sentiamo lunedì prossimo, questa è Beautiful Girl. No, che è lunedì, ci sentiamo mercoledì con le interviste, Mauro. Ci sentiamo tutti i pomeriggi su Radio Città Fujiko dalle 3 alle 5.